Capitolo 37. Münster, lunedì dell'angelo 1534. Non chiamarmi pazzo. Il pugno mi prende sullo zigomo. Vado giù. Jan è una maschera rossa e bionda di furore. Mi accascio su una sedia. Con questo hai dimostrato davvero di essere un saltimbanco miserabile. Trattiene il respiro. Muove qualche passo massaggiandosi le nocche sbucciate. China il capo, dondola. Lo scatto di rabbia si vela subito di disperazione. Aiutami, Gert, io non so cosa fare. Lo guardo affranto, un piccolo sarto piagnucoloso e meschino. Aiutami, sono un verme, aiutami. Dimmi cosa devo fare, perché io non lo so, Gert. Si siede sullo scranno che è stato di Mattis. Guarda il pavimento. Hai già fatto abbastanza? Annuisce. Sono un coglione, sì, un fottuto coglione. Ma volevano una speranza, li hai visti? Volevano che dicessi loro quello che ho detto. Mi volevano così e l'ho fatto. Li ho resi felici, di nuovo forti. Resto zitto, inerte. La testa pulsa, la botta, la convulsione di queste ore. Sembra riprendersi appena. Ieri erano perduti. Oggi terrebbero testa a Bonvalde e camani nude. Cerca il mio sguardo. Io non sono Mattis. Possiamo ricominciare da capo, possiamo scopare, eh? Banchettare, fare tutto quello che vogliamo. Siamo liberi, Gert, liberi e padroni del mondo. Non ho voglia di parlare. Non ha senso. Ma le parole escono da sole. Per me e per il fratellastro pazzo con cui ho condiviso il fetore delle stalle, il nuovo profeta di Münster. Quale mondo, Jan? Von Waldeck non è un fesso. I potenti non lo sono mai. Potente aiuta potente, principe appoggia principe. Papisti, luterani, non ha alcuna importanza. Quando quelli che stavano sotto si ribellano, te li ritrovi tutti uniti, con i loro cavalieri e le loro armature luccicanti, schierati per caricare. Questo è il mondo là fuori. E stai sicuro che non è cambiato solo perché hai regalato a questa gente il bel sogno di Sion? Piagnucola come un cucciolo, le dita affondate nei riccioli biondi. Dimmelo tu. Tu sai cosa va fatto. Farò quello che mi dici, ma non lasciarmi, Gert. Mi alzo stordito. Ti sbagli? Non lo so nemmeno io, non lo so più. Guadagno la porta, tra i suoi guaiti infantili. Lei è lì dietro, ha ascoltato tutto. I capelli sono talmente chiari e luminosi da sembrare di platino. Divara, una veste discinta che lascia intravedere il corpo perfetto. Nel volto, l'innocenza di una bambina, bianca regina bambina, figlia di un birraio di Harlem. Un tocco lieve mi solleva la mano e ci fa scivolare una piccola lama. «Uccidilo!» mormora appena, indifferente, come se parlasse d'un ragno sul muro o d'un vecchio cane moribondo a cui concedere requie. La vestaglia, aperta sul seno turgido, a rivelare il premio. Gli occhi di un blu intenso che incutono terrore fin nelle ossa. I peli ritti come spilli, il cuore a tamburo. Una catasta di cadaveri, visione di ciò che può succedere, l'abisso spalancato da una ragazzina di 15 anni. Devo aggrapparmi al corrimano delle scale, barcollando giù, lontano dalla venere dispensatrice di morte. Münster, 22 aprile 1534. Torpore. Delle membra, della mente. Non riconosco nessuno. Non è la stessa gente che ha battuto i vescovigli e i luterani in una sola notte. I miei uomini, loro sì, mi seguirebbero all'inferno, ma non potrò portarli via. Qualcuno deve pur restare a controllare il giullare, la regina bianca e il loro regno dei miracoli. Da solo, andare via subito, cercare lo sbocco della fogna prima che sia troppo tardi. Gli eventi di questi giorni fanno paura, eppure il morale è alle stelle. In una sortita ho catturato un manipolo di cavalieri che tentava di attaccare la Jutfeldeltor. E ora stiamo trattando per uno scambio di prigionieri. Abbiamo anche fatto passare ai vescovili la voglia di venire sotto le mura, fuori portata dagli archibugi, a mostrare i loro culi pallidi al grido di «Padre, dammelo, bramo la tua carne», abitudine che avevano preso nelle serate di sbornia e bisboccia. Con un po' di buona balistica è stato sufficiente centrare uno di loro con una cannonata tra le chiappe, riducendolo a bocconi per cani. Per una settimana tutti gli uomini sui bastioni hanno pisciato e cagato dentro una botte, che è stata poi fatta rotolare dentro l'accampamento vescovile. Quando quelli l'hanno aperta, il fetore è arrivato quasi fin qua. Insieme a Gräsbeck ho organizzato esercitazioni di tiro per tutti, anche per i ragazzi e le donne. Insegniamo alle ragazze a bollire la pece e a versare calce viva in testa agli assedianti. Ci sono turni di guardia alle mura suddivisi tra tutti i cittadini, di entrambi i sessi, tra i 16 e i 50 anni. Ho fatto mettere una campana su ogni bastione, da suonare in caso di incendio, affinché si possa sapere dove accorrere con l'acqua. Abbiamo scoperto che Mattis aveva inventariato i beni sequestrati ai luterani e ai papisti, nonché le disponibilità alimentari della città. Aveva annotato tutto, fino all'ultima gallina e all'ultimo uovo. Si può resistere per almeno un anno. E poi? Anzi, e intanto? Non basta, non può bastare. Le sparate del profeta Saltimbanco non portano da nessuna parte. I Paesi Bassi, i fratelli. Raccontare cosa succede a Münster, organizzarli, sceglierli. Forse anche addestrarli a combattere, cercare soldi, munizioni. Non lo so, non so se è la cosa giusta da fare. Non l'ho mai saputo, ogni volta che ho scelto una strada diversa. Senti solamente che non puoi continuare così, che le mura, le pareti, cominciano a starti strette e la tua mente ha bisogno di aria fresca, il tuo corpo di sentire le miglia che scorrono sotto. Sì, puoi fare ancora una cosa per questa città, capitano Gerd dal Pozzo. Impedire che le lascino solo la follia dei suoi profeti. Münster, 30 aprile 1534. Il bagaglio è leggero. Dentro la vecchia sacca di cuoio, gallette, formaggio e aringhe secche, sufficienti per qualche giorno. Una mappa dei territori tra qui e i Paesi Bassi, il corno pieno della polvere da sparo che non si bagni, le due pistole che Gräsbeck ha insistito portassi con me e tre vecchie lettere sbiadite e unte che tradirono Thomas Münster. Cimeli inseparabili queste ultime, unico ricordo tangibile di ciò che è morto e sepolto sotto le macerie dell'apocalisse mancata. Sei proprio sicuro di voler andare? La voce roca dell'ex mercenario spunta sulla porta. Non è il tono di chi ha obiezioni da fare, ma di chi si chiede perché non lo porto con me. Abbiamo fatto male i conti, Heinrich. Intendi con Mattis? Intendo con questa gente. Un'occhiata fugace, mentre allaccio le ultime stringhe. Vogliono credere di essere santi. Vogliono che qualcuno gli racconti che tutto è filato liscio, che Münster è la nuova Sion e non c'è niente da temere. Saggio il peso della sacca. Ottimale. Invece dovrebbero cagarsi sotto. Hai dato un'occhiata fuori dalle mura? Von Waldeck sta innalzando delle fortificazioni e sono sicuro di aver visto abbattere degli alberi a nord-ovest. Sai che significa? Macchine da guerra, Heinrich. Si preparano a un assedio. Hanno tutta l'intenzione di inchiodarci qui, il più a lungo possibile. Almeno finché le ultime sparate dell'ultimo profeta baciato in bocca da Dio non ci avranno definitivamente rincoglionito. Le navi che trasportano qui con fratelli battisti dell'Olanda sono state intercettate sull'Ems. C'erano armi e viveri. Chiudono i confini, le strade. Sono tutti segni, ma nessuno se ne accorge. L'hanno pensata bene. Gräsbeck mi lancia la sua occhiata torva. Che vuoi dire? Un assedio di lungo periodo. Chiuderci qui dentro, stringere il cerchio e aspettare. La fame, il prossimo inverno, ribellioni intestine, che cazzo ne so? Il tempo gioca a loro favore. Se io fossi Von Waldeck, farei esattamente questo. Punterei i cannoni e incrocerei le braccia. La sacca è già sulla spalla. Adriansson dovrebbe aver sellato il cavallo da basso. Sono quasi sereno. Ci servono nuovi contatti con i fratelli olandesi. Ci servono soldi con cui comprare i mercenari di Von Waldeck e rivoltarglieli contro. Ci serve scoprire i passaggi sicuri per forzare il blocco. E soprattutto serve capire se fuori di qui qualcuno sta pensando di prendere le armi e seguirci o se davvero, come diceva Mattis, c'è soltanto deserto. Bisogna far presto. Ogni giorno che passa è regalato agli avvoltoi là fuori. E con Bokelson come la metti? Mi viene da ridere. Scendiamo le scale. Le giumente sono pronte. Il maniscalco stringe le cinghie della mia sella. Se lo sono scelti loro, cosa possiamo farci? Salto in groppa e tiro le redini, per frenare l'ardore dell'animale. Jan è un debole, un cialtrone. È per questo che non ti porto con me. Voglio che lo tieni d'occhio. Sei l'unico che può farlo. Knipper Dollig e Kippenbrock si sono rammolliti. Rothman è malato. Scegli bene gli uomini su cui contare e mantieni salde le difese della città. Questo soprattutto. Von Waldeck cercherà di approfittare di ogni falla, di ogni distrazione. Rispondi colpo su colpo. Bersaglia i suoi mercenari di fogli volanti, Valgono più delle cannonate a volte, ricordalo. Tornerò presto. Una forte stretta di mano. Ancora destini che si scelgono. Grasbeck non lascia trasparire emozioni, non è il tipo. Non lo sono più nemmeno io. Lo scopro ora. Buona fortuna, capitano. E che non ti possa mai mancare una buona pistola alla cintura. A presto, compare. Adrianson mi precede. I talloni colpiscono i fianchi del cavallo. Non guardo le case, la gente. Sono già alla Userfrauentor. Sono già fuori dalla città. Sono già a 10 miglia sulla strada per Harnem. Sono di nuovo vivo.